Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Sulla scuola ci siamo, sembra, si andrà in classe senza mascherina, la capienza degli autobus sarà all'80%, qualsiasi cosa voglia dire e in qualsiasi modo si riesca a calcolare. Resta aperto il non secondario problema della carenza dei docenti e dei banchi monoposto. Ma vedremo. Il tutto in uno strano clima politico, quello di una politica che si prepara da una parte a un voto per le regionali piuttosto incerto, dall'altra a referendum sul taglio dei parlamentari, sullo sfondo la questione immigrazione che torna ad animare il dibattito. E nemmeno troppo sullo sfondo la questione economica. Oggi il Sole 24 Ore riferisce che sul tavolo del governo per l'uso dei fondi europei ci sono 100 progetti, che è una discreta quantità, per usare un eufemismo, mentre i dati sul PIL del secondo trimestre indicano un calo di quasi il 13%. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, con un po' di anticipo, sono le 6:26 minuti e 20 secondi, più tempo insieme in questo martedì 1 settembre. Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, il resto della redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori, Francesco Ciaraffo, Margherita Ina. Siamo qua, siamo qua. La giornata un po' ve l'ho riassunta. L'altro elemento rilevante, che è rilevante sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista della riflessione sull'economia italiana e sulla presenza dello Stato, è la questione piuttosto complessa, a dire il vero, della rete unica in fibra ottica per la rete ultraveloce. L'accordo raggiunto tra Cassa Depositi e Prestiti e Telecom Italia. L'obiettivo è quello, per farla molto semplice, di dare a tutta l'Italia una rete sopra i 100 megabit al secondo, per consentire tutto quello che abbiamo imparato a fare durante il lockdown. Videoconferenze a nastro, streaming video e film a nastro. Che impone qualche punto di riflessione questa vicenda, è anche questa. Da cosa iniziare oggi? Direi da Covid. Allora, i dati di ieri ci indicano un calo dei contagi. Questo calo dei contagi va preso come va preso, perché come sempre, e fatemi dire un po' incredibilmente, la domenica ci sono meno tamponi, si dimezzano, si diminuiscono notevolmente i tamponi, e quindi questo calo dei contagi prendiamolo per quello che è. Sono come al solito dati piuttosto inaffidabili. Sono affidabili invece i dati sulle terapie intensive, che non sono sotto pressione al momento. I dati sulle vittime sono poche, e quindi i segnali non sono negativi, appunto. Ieri ha parlato lungamente il ministro Speranza e direi forse che possiamo partire proprio dai tamponi, Carmelo. Siamo arrivati a quasi 100.000. Ma il numero è notevolmente cresciuto, noi siamo arrivati in questa settimana a sfiorare i 100.000 tamponi al giorno, questo senza considerare i test sierologici, che pure sono in numero assolutamente significativo. Dobbiamo insistere, in questa partita non c'è una soluzione unica, servono i tamponi, serve la ricerca sul vaccino, serve la ricerca su nuovi farmaci, serve l'app Immuni, che invito i cittadini del nostro paese a scaricare, servono i dipartimenti di prevenzione, serve la sanità del territorio. Si dice convinto, Speranza, che ci vorranno ancora pochi mesi per poi avere il vaccino, quindi il momento di tenere alta l'attenzione non durerà a lungo. Io penso che nel giro di qualche mese la scienza, la ricerca ci metterà nelle condizioni di poter guardare con maggiore fiducia al futuro, ma abbiamo bisogno ancora di un po' di resistenza, di alcuni mesi non facili, saranno questi dell'autunno, questi dell'ultima parte dell'anno, e io penso che in questa fase abbiamo bisogno ancora di tenere molto alto il livello d'attenzione. C'è poi, ovviamente, adesso magari ci torneremo sulla questione dei tamponi, perché c'è tutta la vicenda del piano Crisanti, quello voluto dallo stesso governo, per arrivare a 300.000 tamponi al giorno. C'è la questione scuola. Dunque, capienza degli autobus all'80%. Non so come la vediate voi e mi farebbe piacere sentirlo, se volete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp o WhatsApp audio, per le vostre voci, per dirmi come la pensate, come la vedete. Ieri ho espresso qualche perplessità. Signori, l'80% vuol dire in sostanza il 100%. O hai dei contapersone e il modo di impedire che quando superi quell'80% qualcuno entri all'interno dell'autobus, oppure è una cosa per dire vabbè, di fatto abbiamo fatto ripartire il trasporto pubblico, mettetevi la mascherina e speriamo che le cose vadano bene. E però sui trasporti dice il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini, che è anche presidente della conferenza delle regioni, abbiamo trovato l'intesa. Dicevamo al governo, guarda che serve un 80% di capienza del trasporto pubblico locale che ci permetta la mattina di portare a scuola gli studenti, riportarli a casa, ma anche ci sono i pendolari del lavoro di cui non parla mai nessuno. Oggi abbiamo trovato una piena intesa, un accordo all'unanimità in conferenza Stato-Regioni. Questa l'intesa è trovata. Bisognerà capire poi come si comporteranno le scuole e come, cosa succederà sul territorio, se le fabbriche, chi deve riaprire, chi deve ripartire fisicamente, quindi le fabbriche, i negozi, i supermercati, le stesse scuole moduleranno gli orari in modo da far sì che questi autobus non si trovino con delle ore di punta, quelle standard, quindi alle 8 del mattino la capienza dovrebbe diventare il 150%, se ne parlava ieri. Cosa succede se ci sono casi nelle scuole? Il ministro Speranza. Oggi è chiaro che se c'è un caso o c'è un focolaio, è il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria che deve scendere immediatamente sul campo e capire che cosa è accaduto, fare le indagini e valutare qual è la scelta più appropriata. Mi scrive un ascoltatore, bisogna mettere i numeri alla fermata come al supermercato, come al bancone del supermercato. Prendi il numeretto e su quella base sali. Oddio, adesso che l'ho detto l'ho suggerito a qualcuno. Vedrete che qualche amministratore locale sicuramente piazza i numeretti. Caro Roberto Arditti, come stai? Direttore editoriale buongiorno, di Formiche.net. Bentornato Roberto, eccoci caro. Qua. Allora, eccoci. La scuola. Ci siamo arrivati alla fine, a un minimo di accordo. Resta, come si diceva, il problema aperto vero, che è quello di come si svolgerà questa attività didattica. Perché da ieri abbiamo appreso innanzitutto i ragazzi e i bambini non devono mettere la mascherina. Dopo settimane nelle quali ci siamo detti che avrebbero dovuto mettere almeno quelli delle superiori e delle medie le mascherine, e se non vado errato qualcuno dalle parti dello Stato centrale ha già fatto gli ordini per le mascherine per gli studenti, adesso apprendiamo che non le devono più mettere. E però restano sospese una serie di cose, a partire dalla questione del numero dei docenti, che è una questione, Roberto, classica di settembre, cioè ce la ritroviamo sempre, ma quest'anno è fortissima e particolarmente problematica. Sì, è così che si navighi a vista. In una vicenda come questa, onestamente, non ci può sorprendere, anche perché, come vediamo da quello che leggiamo, ascoltiamo, analoghe situazioni stanno accadendo un po' in giro per il mondo, quindi io non me la sentirei di dire che da noi è tutto fuori posto, perché le cose non stanno così, navighiamo a vista noi e naviga a vista il resto del mondo. La scuola deve riaprire, anche se poi nessuno di noi ha capito esattamente, e forse è anche impossibile capirlo in anticipo, che cosa succederà in presenza di dati di contagio particolarmente significativi in questa o quella classe, in questo o quell'istituto, o in un numero rilevante di docenti o allievi o personale della scuola, appunto di un istituto o di un altro. Abbiamo visto che paesi civili e ben organizzati, tutto sommato, come la Germania e la Francia, nelle settimane queste hanno dovuto chiudere alcune scuole. Quindi insomma, prepariamoci a una certa complessità. Hai ragione tu quando dici che l'80% è sostanzialmente un modo elegante per dire 100%. Un modo più che elegante dire italiano. Un modo italiano. Elegante per dire abbiamo fatto uno sforzo di ridurre, ma è anche vero, ascoltavo le parole di Bonaccini che ci hai fatto sentire, che tutti gli esperti di trasporto locale sanno che, per esempio, se prendiamo i treni, quelli che portano studenti e gente che va a lavorare la mattina, soprattutto nelle primissime ore della mattina, se noi proviamo ad applicare le regole di distanziamento che vedo per esempio applicate sui treni a alta velocità, dovremmo raddoppiare i treni disponibili. Siccome i treni non ci sono e sui binari non ci stanno per ragioni di frequenza, vorrebbe dire non portare le persone. Quindi è evidente che dobbiamo fare dei giganteschi compromessi. Sì, spero, sì. E ho finito, spero, che l'occasione drammatica di quest'anno che stiamo vivendo sia, penso alla scuola, anche un'occasione di imponenti investimenti sulle strutture. Per esempio, noi dovremmo tornare a costruire nuove scuole, edifici scolastici. Sì. Visto che adesso l'ultimo problema con cui dobbiamo fare i conti sono i soldi, tutto sommato. Basta Roberto che presentiamo dei piani decenti in Europa, che è l'altro snodo centrale. Però hai ragione, non è la questione dei soldi, non è un problema in questo momento. Stavolta si facciano gli investimenti in molti pezzi del nostro sistema, costruendo scuole, in molti casi anche costruendo, ultimando la costruzione di ospedali più moderni. Prendiamo quello che c'è di buono da questa crisi, e cioè l'opportunità di compiere scelte che attendevano da anni, perché tutto quello che c'è di cattivo ce lo dobbiamo tenere, quindi andiamo alla ricerca del buono. Sì, io tra queste riforme delle quali avremo bisogno ci metto, oltre alla questione dell'edilizia scolastica, ci metto anche quello che si diceva prima, ossia la questione del reclutamento dei docenti. Signori miei, non è possibile che noi ogni anno in settembre, da almeno 20 anni, 30 anni, ci ritroviamo con questa questione che resta aperta, che non sai mai quanti ne mancano, se ci sono abbastanza insegnanti di sostegno, quanti ne rimarranno al sud, quanti supplenti. È insomma un po' paradossale, e forse questa potrebbe essere l'occasione, chissà se avrebbe potuto essere l'occasione per anche metterci mano. Anche lì ci siamo sempre detti che in fondo era una questione di soldi. Esattamente, cioè, no? Certo. Adesso tutto sommato ce li hai. A proposito di soldi, sta rimontando la questione del fondo salva stati, che resta sempre la sospesa, il MES, perché il governo ha detto quando avremo in mano tutti gli strumenti messi a disposizione dall'Europa, a quel punto decideremo se prendere il Fondo Salva Stati nella sua versione nuova, che è la versione che abbiamo raccontato mille volte, ossia la versione che non ha vincoli se non quello di utilizzarlo per spese sanitarie. Ebbene, la decisione non è ancora arrivata. Roberto, vai, dimmi. Traduciamo: superata la data del 21 settembre. Esattamente. Delle elezioni del referendum. Possiamo prendere il MES. Esatto, possiamo o quantomeno ragionarci sopra. Sì. Detto ciò, ieri è tornato un po' in ballo, in gioco, ne hanno parlato il ministro Speranza, il presidente della regione Toscana, anche lui di centrosinistra, Bonaccini del PD, e beh, sentiamoli, va. Sicuramente sì, ogni volta che c'è da prendere risorse per la salute sono sicuramente d'accordo. Quello che importa è che le risorse arrivino perché ne abbiamo bisogno. L'80% può andar bene, ma abbiamo bisogno di più mezzi e quindi chiediamo che il governo nazionale faccia ricorso al MES. Vi faccio dire un'ultima cosa, io proprio non riesco a capire, perché non mi ha convinto nessuno di quelli che dicono di no, ci leggo solo ragioni ideologiche, perché l'Italia dovrebbe rinunciare a 36 miliardi di euro del cosiddetto MES. Ed eccolo qua che rimonta, così come inizierà a montare un po' più dalla settimana prossima la questione di come utilizzare il cosiddetto recovery fund, ossia il fondo appunto voluto dall'Europa, varato dall'Europa per la ripresa. Oggi il Sole 24 Ore riferisce che sono 100 i progetti al momento sul tavolo del governo che impegnerebbero 150 miliardi di euro. Ovviamente solamente una fase di raccolta, Roberto, per carità, l'analisi inizierà, se non vado errato, mercoledì prossimo. Ci sarà, non questo, non domani, ma fra una settimana ci sarà il primo incontro di questo organismo presieduto dal ministro degli affari europei Enzo Amendola, che inizierà a valutare un po' queste cose. Certo, 100 progetti, sono tantini. Io ho raccolto qualche voce preoccupata anche a livello adeguato di chi si sta occupando di questa materia, perché molti dei progetti presenti che ci sono nei cassetti, per usare un'espressione, sono progetti in molti casi un po' datati e ad un livello di definizione piuttosto approssimativo, quindi così come sono probabilmente non in grado di soddisfare le richieste dei gruppi di lavoro che poi li valuteranno. Questo è molto importante, perché questa volta l'Italia, e come gli altri paesi naturalmente, non si troverà di fronte a un meccanismo in base al quale una volta presenta un progetto, arrivano i soldi poi si viaggia e si fa con qualche verifica. Qui, da quello che sappiamo, l'Unione Europea, proprio per l'entità generale dei finanziamenti, metterà in campo un meccanismo di controllo in tempo reale sia della progettualità che della sua attuazione, con erogazione dei fondi nel mentre dello svolgimento. Quindi per l'Italia si tratterà di giocare una partita per molti versi nuova, per quanto mi è stato raccontato, e anche più complessa tecnicamente. Assolutamente. Per un paese che fatica a tenere sotto controllo l'andamento dei progetti nel momento nel quale li mette in campo, è un paese che fatica molto, l'abbiamo raccontato mille volte, uno dei grandi difetti, a capire esattamente come stanno andando le cose, quali sono le responsabilità sia amministrative che politiche, e quindi fatica un po'. È chiaro che questa è una sfida assolutamente nuova, mi consentiranno gli ascoltatori un'espressione inglese che però è quella che rende l'idea, è una sfida di governance vera e propria, cioè appunto di gestione del singolo progetto e della singola idea. Anche perché stavolta non ce li danno se no i soldi, e vorrei anche ricordare il fatto che molti di questi denari arriveranno all'erogazione quando la grande tempesta emotiva della pandemia sarà passata, perché se, come diceva il ministro Speranza nelle frasi che abbiamo ascoltato poco fa, nel giro di un ragionevole numero di mesi, diciamo nella primavera del prossimo anno, avremo un vaccino, lì saremo all'inizio della capacità di spesa dei fondi europei, che continueranno ad essere disponibili negli anni a venire. Se negli anni a venire, tramontata l'ansia emotiva o almeno parzialmente tramontata della pandemia, nessuno potrà fare appello a quell'ansia emotiva e tutto tornerà a una gestione amministrativa anche di questi fondi più normale. In quella gestione amministrativa normale o fai tutto per bene o non ti danno i soldi per attendere. Sì, il rischio è di un tentativo di mega assalto alla diligenza, traffico. Mattino. Oh, ma Ma quanto ti manda i matti la capienza all'80%? Ma quanto ti manda i matti? A Bergamo i pullman sono già pieni al 150%. Utilizzare l'80% vuol dire che quasi la metà degli alunni resteranno a piedi. Invece i bambini delle elementari che hanno il bus del comune che li viene a prendere, lì come verranno gestite l'80%? Lì insomma il comune sa esattamente quanti bambini ne hanno fatto richiesta, sa il comune quanti mezzi ha, per cui sa anche quanti posti con l'80% dispone. Vorrà dire che mette dei mezzi in più? Teoricamente sì, e l'accordo che è stato raggiunto ieri prevederebbe anche dei fondi da parte del governo perché i comuni acquistino più scuolabus, perché c'è la questione dell'80%, ma c'è anche la famosa questione dei 15 minuti. Secondo il comitato tecnico scientifico, quando arrivi al riempimento massimo, si può stare all'interno dell'autobus o dello scuolabus per un massimo di 15 minuti. 15 minuti al massimo, eh? Io non so, nei posti, allora, le città non ne parliamo, nei posti nei quali gli scuolabus vanno a raccogliere i bambini, nei paesi sperduti intorno, nelle frazioni del comune, e poi devono rientrare dentro per portarli nella scuola che si trova nel comune al centro, non ne parliamo nemmeno. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E poi, insomma, allora, una qualche soluzione va trovata, certamente. Come diceva Roberto Arditti prima, chiaro, è una situazione nuova, è difficile prendere le misure in questo caso per davvero. Certo che l'impressione che su certe questioni le famiglie, come ci scrive un ascoltatore, siano state lasciate un po' in balia di loro stesse. Autocertificazione, misurazione della febbre e poi devono scapicollarsi per portare i figli a scuola. Però è così, è anche il periodo che stiamo vivendo, ragazzi, Che è difficile e complicato da gestire, questo senza alcuna giustificazione per una pianificazione del rientro a scuola che, lo abbiamo detto fin dall'inizio, a nostro giudizio andava ragionata quantomeno a maggio, cioè non trovarsi a chiudere tutto adesso, quantomeno a giugno, non lo so, a luglio, finisci a luglio di programmare questa cosa, però programmala. Dai delle certezze alle persone. Anche la questione dei test sierologici per il personale docente e non docente, insomma, è stata gestita un po' così, eh? Adesso rientreranno tutti e chi vorrà farà il test sierologico, gli altri non si sa. Con una parte dei medici di base che questi test sierologici ancora non li ha. Cosa ancora da sentire questa mattina? Il famoso professor Crisanti dell'Università di Padova, il quale ha presentato questo piano, a quanto pare accettato dal governo, per fare 300.000 tamponi al giorno, che è forse l'elemento che veramente ci darebbe un po' di sicurezza da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista della riapertura delle scuole, ovviamente. Dice ieri a In Onda: bisogna trovare più asintomatici possibili. Adesso noi sappiamo che la maggior parte delle persone che contrae questa infezione rimangono asintomatiche, quindi la battaglia è prendere più asintomatici possibile per impedire che vengano in contatto con le persone vulnerabili. Guardi, a Bergamo c'era il 30% di persone che hanno incontrato il virus. Con quelle percentuali non c'è difesa per le persone, certo, vulnerabili. Parla anche di scuola, Crisanti. Dei positivi sugli studenti potrebbero essere intorno al 2-3%, che insomma è un numero importante. Se poi lei consideri che questo 2-3%, ognuno a sua volta genera la necessità di fare tamponi, esatto, a un 200-300 persone. Usciamo dalla questione Covid per il momento, poi ovviamente ci ritorneremo più avanti, ancora sulla trasmissione avremo ospite il presidente dell'Associazione dei Comuni, De Caro, parleremo con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per ragionare anche di questo, non solamente di questo, anche un po' di politica naturalmente. E veniamo alla questione immigrazione. La pressione su Lampedusa c'è, la pressione sulla Sicilia c'è e l'abbiamo ampiamente raccontato. Totò Martello, il sindaco di Lampedusa, è stato convocato da Giuseppe Conte insieme al presidente della regione siciliana, Musumeci. Dopo le proteste delle scorse ore, Lampedusa ovviamente in netta difficoltà. Oggi i quotidiani parlano della possibilità che Lampedusa diventi zona franca per, come possiamo dire, risarcirla di quello che è avvenuto. Martello, sentiamo il sindaco. All'interno dell'hotspot ci sono 1160 persone. Abbiamo un'altra struttura della Casa della Fraternità che c'erano gli ultimi arrivati, che sono 360 persone. Stanotte sono stati trasferiti 120 con delle motovedette e stamattina ci dovrebbe essere un altro alleggerimento con un'imbarcazione della Capitaneria di Porto che ne dovrebbe trasferire 2000. Quindi, senta, come potete ben vedere, Lampedusa è piena. Altra questione aperta, Roberto Arditi, molto velocemente, è la questione della famosa revisione dei decreti sicurezza, ne abbiamo parlato ieri, che anche quella resta sospesa in attesa del 21, 22, 23 settembre delle elezioni amministrative. Sì, indubbiamente sul piano politico è così. Io dubito che quei decreti verranno realmente modificati, perché il voto del 20-21 settembre, secondo me, metterà ancora di più sotto pressione i partiti di governo. E di conseguenza dubito che soprattutto lato 5 Stelle verrà la voglia di diciamo così rivedere quelle norme rendendole meno drastiche, ammesso che lo siano poi fino in fondo. L'unica osservazione che faccio veramente rapidissima è questa: credo che il governo farebbe bene a prestare molta attenzione su questo punto, perché io non aggiungerei alle criticità italiane, che sono già evidenti, anche un ritorno robusto della questione immigrazione, perché credo che il sistema nel suo complesso e anche il governo non riuscirebbe a reggere l'aggiungersi di questa altra questione. Sì. Consiglierei, come credo sia anche nelle intenzioni del Ministro degli Esteri, ho letto i resoconti della visita in Libia di ieri, un atteggiamento che renda il numero degli sbarchi, ferme restando tutte le attività umanitarie di soccorso, il numero degli sbarchi minimo, sì, per evitare di aggiungere quest'altra questione alle tante che abbiamo. Vogliamo chiudere, e ti ringrazio, grazie Roberto Arditi, direttore editoriale di formiche.net, per oggi, ci sentiamo alla prossima, Roberto, ciao. Vorrei chiudere parlando di un altro mondo che è rimasto un po' in sospeso, perché stiamo parlando molto di scuola in queste ore, ma le attività che svolgono i ragazzi, i bambini, sono tante, a partire da quelle sportive. E là la confusione, mi sembra di capire, Vittorio Bosio, presidente del Centro Sportivo Italiano, è massima su quello che possono fare i centri sportivi, su come si possono organizzare, su autocertificazioni, non autocertificazioni, le vostre responsabilità. Che ci dice? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Sì, le responsabilità sono tante, la confusione è tantissima. Purtroppo le attività che fanno i ragazzi, le attività dello sport di base sono in una fase che dovrebbero ripartire, ma senza norme certe, naturalmente ci sono delle problematiche che ripartire sarà complicato. Ci stiamo provando, credo che le attività sportive siano attività importanti per i ragazzi, siano attività che fanno parte dell'educazione delle nuove generazioni e richiedono un'attenzione particolare. Certo, vogliamo ripartire in sicurezza e vogliamo ripartire se le condizioni sanitarie lo consentiranno, questo sì, mi sembra evidente. Ma regole certe ne avete, Bosio? Ma regole certe in questo momento ce ne sono veramente poche, anche perché, cioè, oltre ai decreti del governo, poi le regioni hanno, ognuno ha fatto per sé e ha legiferato in maniera diversa, pertanto da una regione all'altra cambiano le regole, e questo naturalmente non ci aiuta a fare una ripartenza tutti insieme, tutti alla stessa maniera. Però abbiamo un po' la fiducia che con l'inizio della scuola forse lo spartiacque è quello, insomma, se quando partirà la scuola poi riusciremo a darci delle regole certe anche per partire con le attività sportive, che riteniamo comunque sia un'attività molto importante per i ragazzi. È per questo che ne parliamo, Bosio, perché sono attività fondamentali quelle che fanno i ragazzi fuori dalla scuola, appunto le attività sportive, per darvi la misura. Il calcio, solo il calcio dilettantistico e giovanile continua a rappresentare il principale movimento sportivo presente in Italia, si parla di 1 milione tra calciatrici e calciatori, di cui 360.000 in attività del settore giovanile scolastico. Sono tutti ragazzi questi 360.000 che non sanno esattamente se e quando ricominceranno, Bosio. A questi numeri aggiunga tutti i ragazzi che poi fanno attività con gli enti di promozione sportiva, che vuol dire raddoppiarli. E sono numeri molto importanti, e credo che pensare di mandare a scuola i ragazzi e poi richiuderli in casa un'altra volta credo che sia impossibile. Dobbiamo comunque dargli una valvola di sfogo poi per fare le loro attività, che sono le attività ludiche e motorie di sempre, che le aiutano naturalmente a vivere una vita sociale insieme, ma anche a affogare quelle che sono poi un po' tutte quelle che le tensioni, tutto quello le tensioni, che è il mondo di oggi che vediamo, sì. Cioè, sì, sì, un buon, lo sport come un buon contatto con la realtà, ovviamente. Grazie Vittorio, sì, Bosio. Grazie Vittorio Bosio, presidente del Centro Sportivo Italiano. GR24, ci ritroviamo subito dopo, vi aspetto come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, fatemene sentire su tutto quello che volete, immigrazione, la capienza, la famosa capienza all'80%, la scuola, la ripresa della scuola, con, senza mascherina, quello che volete, tra poco. Buongiorno, caro conduttore, ci sei mancato. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.